Gesù. E me pure. Infatti non so catalani, compreso. Sono i catalani, lo compreso, mi ha lagariso. Ma mi aiuta che sta mara. Mi aiuta sta mara. Porta che sta muta. Thank you.